Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, ennesima puntata di Rock Wave del mercoledì 30 giugno. Siamo vicino a luglio, domani è luglio praticamente, e stasera abbiamo i Canadians. Buonasera Canadians. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Hai fatto buon viaggio da Verona fino a qua, penso di sì. Sì, sì, con Michele che faceva i 190. È stato un viaggio molto piacevole. Non si deve dire. Benissimo. Canadians sono già venuti a trovarci qualche anno fa per presentare il loro album iniziale, d'inizio praticamente. O no? Ma mi sa che è la terza volta che veniamo. Esatto. Esattamente. Questo è il nuovo disco, che avete fatto dopo due anni di costruzione, un anno e mezzo di costruzione del disco. È stato un parto bello ma difficile, complesso musicalmente parlando. Cosa dici? Sì, è stato un passo direi importante, nel senso che il primo album era nato un po' come primo album, quindi con non sapevamo ancora che cosa ci aspettava in studio e quant'altro. Mentre il secondo ci siamo presi un pochino i nostri tempi, che sono abbastanza lunghi, e l'abbiamo costruito in maniera più matura, diciamo. Sì, dobbiamo ricordare che il primo album ha avuto un riscontro anche americano, possiamo dire queste robe, giustamente. Sì, sì, diciamole. Dai, diciamole, forza. L'album ha avuto un riscontro anche americano. Dimmi, ma per qual motivo ha avuto un riscontro americano? Ma in realtà ha avuto un riscontro americano perché già col primo EP in America eravamo riusciti tramite MySpace a muoverci abbastanza bene, a far girare un po' il nome. Poi la nostra etichetta ha lavorato molto bene negli Stati Uniti, appoggiandosi ad una promozione, un'agenzia di promozione in loco, diciamo. Certo. E quindi ci ha permesso di essere trasmessi da un sacco di radio universitarie, avere recensioni sulla stampa sia cartacea che online. E niente, insomma, tutto quello che ne consegue, quindi contatti con gli Stati Uniti e passaggi dei nostri pezzi, insomma. Quindi è allargato il suono dei Canadians, è cominciato ad allargarsi dall'Italia fino al Canada. È arrivato fino al Canada, non è mica una cosa semplice, è una cosa decisamente molto positiva. Quindi un anno e mezzo, quasi due anni di sosta per mettere a fuoco le diverse componenti di questo disco praticamente. Che diversità c'è dal disco precedente? Ci sono più strumenti rispetto al precedente, strumenti diversi da quello precedente. Innanzitutto ha preso parte in prima persona anche Vittorio Pozzato alla creazione proprio dei pezzi, e quindi innanzitutto questo. E poi, come tutti i gruppi, insomma, più si suona insieme, più c'è un approccio, diciamo, al lavoro un pochino più articolato, certamente, se vogliamo. Quindi, insomma, quindi il discorso è stato sviluppato, è stato ampliato. La ricerca, posso dire, di qualche nuova sonorità, questo sì. Sì, Vittorio suona 255 strumenti. Perfetto. Quindi, cioè, perché parla di me in terza persona? Adesso ci potrà dire, ce li potrà elencare tutti i 255. Il maestro Vittorio Pozzato. Ecco, grazie. Vittorio, elenca questi 255. No, nel disco abbiamo usato mandolino. Che ho portato stasera. Si vede con la telecamera, si può vedere benissimo. Fantastico mandolino. Banjo tenore. Violino. E basta, poi io resto suonato le tastiere, cioè pianoforte. Stasera non suoni le tastiere, suoni il mandolino. Esatto. Chiaramente. Pianoforte più MS-20 più un altro paio di synth e basta. Avete però utilizzato lo stesso produttore del disco precedente, mi pare, no? Sì. Sì, sì, sì, ma il disco precedente c'era stato affibbiato d'ufficio, diciamo. Però l'abbiamo... siete stati contenti. Sì, sì, noi siamo arrivati lì in studio e c'era lui e quindi ce lo siamo tenuti. E la volta dopo, quando invece avevamo una possibilità di scelta, abbiamo scelto ancora lui, perché la volta prima ci eravamo trovati così bene che ci è sembrata, insomma, la scelta più naturale. L'abbiamo anche coinvolto in fase di preproduzione, sì, questa volta, quindi è venuto in sala prove, aveva sentito i provini e questo ci ha permesso di realizzare un disco più complesso, diciamo, dell'altro in minor tempo. Quindi il lavoro pre-registrazione è stato fondamentale da questo punto di vista. È Matteo Cantalupi praticamente. Esatto, sì, Matteo Cantalupi, diciamolo. Ha fatto un grande lavoro anche in questo disco praticamente. Sì, ma lui fa sempre grandi lavori. Perfetto. Quindi vai, cioè, già c'era la conoscenza con voi, quindi è andato sì, via. cioè proprio abbiamo preferito scegliere un amico, insomma, piuttosto che un perfetto sconosciuto. Decisamente. E quindi qualcuno ha scritto, ci sono delle sonorità chitarristiche che c'erano anche nel disco precedente, sì, però sono state un po' allargate, un po' rese un po' diverse, leggermente diverse. Ma, cosa dici? Secondo me buona parte di questa differenza può dipendere dalla diversa tipologia di registrazione. Mm. Però, per dire, in molte recensioni ho sentito che hanno messo in evidenza il fatto che è un disco molto più chitarristico. Sì. Quando secondo me invece non è così, perché è un disco molto più vario. Era più chitarristico l'altro, secondo me. Cioè, lo mettevi su e sentivi subito il muro di chitarre e poi andavi a cercare le altre sonorità. Adesso invece mi sembra che sia anche diverso, se, anche, se anche se il primo pezzo ha un bel muro di chitarra. Sì, è vero, i primi due effettivamente sono due botte di chitarra. Sì, sono collegate il primo disco. Probabilmente precedente. Quelli che fanno le recensioni hanno ascoltato solo i primi due pezzi. Forse per quello. Ci sono tante cose. Si sono fermate le prime due pezzi che sono un bel muro chitarristico, quindi dicono, c'è un collegamento col disco precedente. Sì, abbiamo fatto questa scelta di mettere le più belle alla fine, quindi sì. Bisognerebbe che i recensori ascoltassero tutto fino in fondo. E quindi è un capitolo diverso, un capitolo per avanzare, per allargare l'orizzonte chiaramente. Mm-hmm. Rispetto al disco precedente. Beh sì, certo, non si fa passi indietro, no? Dopo, si cerca sempre... dopo tanti concerti, tantissimi concerti, abbiamo cercato di riportare anche su disco quella che era la nostra resa live, diciamo. Infatti il disco è stato suonato live questa volta. Mm. Mentre l'altra volta c'era prima il batterista che faceva le sue parti, poi andava fuori a fumarsi una sigaretta per non dire altro, e io facevo le mie parti, Duccio le sue, Michele le sue, Vittorio le sue. Invece adesso abbiamo cercato di suonare tutti assieme e penso che questa differenza si noti proprio all'ascolto, perché è più, non so, è più suonato, benché sì, quello prima fosse altrettanto suonato, magari anche ci abbiamo perso più tempo a suonarlo, però questo qui è una resa più vera, diciamo. Sì, praticamente avete siete, se mi è costituito il termine, siete diventati più maturi su certe cose. Sì, sì, sì, su tutte, su tutte. Anche anagraficamente siete diventati più maturi, purtroppo. Allora, siete giovani rispetto a me, siete molto giovani. Chiaramente, allora apriamo la solita finestra sulle 22:17 col primo pezzo, chiaramente. Mi pare che avete scelto il primo pezzo della scaletta del disco. Sì, sì, sì, per, sì. Esatto, questo del muro chitarristico. Esatto. Esattamente. Lo vuoi annunciare? Beh, Great Day. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questa muro chitarristico che inizia l'album, con cui inizia l'album. Ci presentiamo, che non ci siamo ancora presentati. Ok, vai. Ok, Massimo, basso e basso. E basso e basta. Vittorio, tastiere, mandolino questa sera. Michele, chitarra. Duccio, chitarra e voce. Perfetto. E Cristian, batteria. Ma, che è sempre. No, l'abbiamo lasciato in macchina stasera. Perché ha fatto, non si è comportato bene ultimamente, Cristian. Quindi è là in macchina, legato a un tavolino di marmo. Perfetto. La capirà solo lui che ci sta ascoltando dall'autoradio in questo momento. Ok. Quindi sono 5 i componenti, stasera ne abbiamo 4, ma praticamente è il 90% della band. 99. I più belli. I più belli, esatto. E c'è una citazione dell'album, cioè il titolo dell'album si collega a un pezzo precedente, Find Out Your 60s. Mm-hmm. Come mai questo autunno del 1960? Cosa c'è? Ah, dai, dimmi. Ma il titolo è il titolo che dà il nome anche a un brano dell'album. Esattamente. Nello specifico, la canzone tratta di questa storia d'amore ipotetica. In realtà sono immagini un pochino buttate lì tra un uomo anziano che è arrivato un po' alla fine dei suoi giorni. Che ripensa a quell'anno lì, insomma, a quell'autunno lì. Quella storia d'amore, insomma, che l'ha segnato un po', ecco. Sì, in una intervista avete anche parlato del 1960 come l'anno dei Beatles, dei Beach Boys, dei dischi dei vostri genitori. Ma era l'intervista di Rockit, perché gli abbiamo detto solo stronzate. Sì. Non lo sapevo questo. Cioè, era un'intervista. No, in realtà è una delle interviste più serie che abbiamo fatto. Perfetto, era un'intervista. Non so se hai risposto a te questa domanda. No. Beh, io non so niente dei testi. Ha risposto Duccio. Parlavi degli anni 60, praticamente. Sì, è Duccio perché li aveva vissuti, quindi ce ne vuoi parlare. Ma Duccio, parlami degli anni 60. No, li ho vissuti, sono nel nostro immaginario, chiaramente. Certo, sempre immaginario, chiaramente. Sono qualcosa di incredibile, quindi per noi i Beach Boys, ma anche quegli anni lì, semplicemente, anche se poi magari non sono stati così, poi sai, tante cose magari quando comunque le immagini ti sembrano anche più belle di quanto sono veramente, comunque. Certo. quindi il disco, cioè il discorso del titolo del disco è un omaggio più che altro è questo, praticamente. Però musica degli anni 60, sì, un omaggio, qualche piccolo riferimento, ma questa è la vostra musica e basta. Sì, noi speriamo di fare solo questo. A parte il Micio, che sa fare qualsiasi cosa. E cosa sai fare? Te? Ma dopo ve lo fa vedere cosa sa fare. Qualsiasi cosa, musicalmente parlando. Anche Vittorio è un po' l'istrumentista. Vittorio che ha costruito gli arrangiamenti, li hai fatti tutti te praticamente? No, li abbiamo fatti assieme. Ma come si fa un arrangiamento con i Kennedy? Vi mettete d'accordo prima, costruite un pezzo, come nasce il pezzo? Ci trovo in sala prove, loro mettono le chitarre a 9, quindi non si sente niente, devo farmi un'idea. E tu cerchi di recepire qualcosa. Quei tappi ci provo, poi a casa magari. L'abbiamo scoperto in studio noi le parti, gli arrangiamenti, perché erano arrivati sentendo solo le chitarre. Ah, noi, perfetto. Anche la batteria l'abbiamo scoperta. Lì. In ogni caso, sì, c'è un'idea che parte, poi si sviluppa chiaramente. Sì, così. Certo, sì. E il produttore che funzione ha avuto? Ma il produttore ci ha dato dei consigli sia in fase di arrangiamento, magari ci ha detto di alleggerire alcune parti, semplificarne altre, oppure proprio ci ha fatto stravolgere alcuni pezzi. Ce n'è una del disco che inizialmente era un pezzo molto veloce, abbastanza panchettino, diciamo, alla fine è venuto un pezzo pop rock molto rallentato, anche proprio a livello di battute, dico. Ed è stata una scelta vincente, perché la versione veloce piaceva solo a 3 persone e la versione lenta piaceva un po' a tutti. Un po' a tutti, sì. Quindi c'è una uniformità di consensi, praticamente. Sì, benché inizialmente qualcuno mi fosse opposto. D'accordo. No, secondo me era così il pezzo, poi invece effettivamente è venuto molto meglio. Ma chi aveva scritto questo pezzo che poi è stato Un pezzo che avevamo fatto l'estate scorsa, l'aveva registrato senza Duccio e non poteva venire quella volta, probabilmente per il troppo caldo che c'era a Milano quando l'abbiamo registrato. Ma era una canzone mia e di Vittorio che effettivamente, riascoltando adesso come è venuta normalmente, faceva abbastanza schifo. Non era apprezzabile, però voi l'avete modificata praticamente. Questa è una cosa molto positiva. Decisamente. E dove l'avete registrato il disco? A Milano totalmente? No, l'abbiamo registrato a Povegliano Veronese, allo studio Sotto il Mare, che è uno studio bellissimo. E che si chiama Sotto il Mare? C'è, un, c'è una ragione, ma, no. No. Tipo non è che il Jungle Sound si chiama Jungle Sound. Ah, perfetto, ma basta, quello, quello. Non era in una giungla, per dire, esatto. Quindi. E poi abbiamo fatto le, beh, le cose principali abbiamo fatte lì. Poi abbiamo fatto voci e tastiera Jungle Sound. E il missaggio abbiamo fatto al Mono Studio, che è lo studio nuovo di Matteo Cantaluppi, sempre a Milano. Da Milano, perché. Consigliatissimo, perché è molto bello anche quello. Perfetto, quindi l'album nei diversi stadi poi è stato costruito praticamente, alla fine è stato fatto a Milano. Sì, tra Verona e Milano, tra il Veneto e la Lombardia. Un po' come il nostro gruppo. Esattamente. Beh, voi siete tutti veneti. No, lui è lui lombardo. Ah, lui lombardo, perfetto. Lombardo. Ok, allora benissimo, adesso facciamo sentire un altro pezzo, poi cominciamo a suonare. Ricordiamo il nostro staff, che è Michele Tosò in regia, che è il nostro mitico regista, poi abbiamo Roberto Baldi, che cura tutte le telecamere, Agostino per le fotografie e Alberto Prisco, che ha curato l'organizzazione del concerto. Andiamo col secondo pezzo, allora. Ok. La dico, devo dirla subito, c'è anche la redazione femminile, la Patrizia. Sì, infatti vedo che c'è, c'è un sacco di gente di là del vetro. Sono presenti, arriveranno fra due settimane, saranno qua. Beh, vabbè, c'è qualcuno notizie. Che dice io non c'entro notizie. Niente, però. Tu non ci sarai, però poi puoi vedere dalle telecamere, ok? Va bene. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. We'll be right back. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Mentre sì. dava il pezzo, voi non lo sapete, ma l'avete visto con le telecamere, diretta rockway.latrevista.org, sì, sì. Ce n'è che stavano provando. No? Ah. Che è bello così, stavate sì, provando sì. il famoso quinto pezzo da eseguire più tardi. Che è quello che viene meglio, se non sbaglio. È no? Che viene meglio, esattamente. Sì, sì, sì. Adesso. Parliamo di questo pezzo che abbiamo sentito adesso, in ogni caso. Quello che abbiamo sentito esatto, quello, dal disco. Dal disco. Esattamente. Carved in the Bark. Perfetto, che è un pezzo che c'è un bel pianoforte poi. Che poi sparisce, però c'era un po' di pianoforte. Sì, sì. È una novità il pianoforte o no? Visto che lo suoni te. Sì, sì, sì. Una novità assoluta per questo disco. Sì, sì, infatti nel disco prima non abbiamo usato nessun piano, abbiamo usato solo plugin. Invece in questo disco le tastiere sono tutti tastiere vere suonate, non c'è nessun plugin. Nessuna... Cioè cosa sarebbe il plugin? I plugin sono degli emulatori di tipo di un organo oppure sì. di un synth che vengono usati dal vivo ma anche in studio da molti gruppi e anche da molti... tastieristi scarsi. Noi invece abbiamo un tastierista bravo, quindi usate il piano vero, è vero, esatto. Ma l'idea di usare il piano vero in questo disco come mai, come è nata da parte di tua, Vittorio? Beh, io ho insistito abbastanza, Cantaluppi ha insistito più di me. Poi avevamo 100 euro da buttare via, esatto, abbiamo registrato il piano vero. Avevamo i skei, quindi abbiamo noleggiato. Esatto, bravo. Avete noleggiato un piano e praticamente esatto, un piano un mezza coda. Adesso non mi ricordo. Mezza coda. Bello comunque. Bello. Molto bello, sì, ma un si sente suono, anche la qualità. No, ma il suono è... Infatti, poi se ascolti bene, ha fatto un po' di esperimento, ha provato a tirare su anche bene il pedale da sotto, cioè ha fatto un po' una microfonazione non proprio tradizionale, insomma. Dopo, più di tanto non me ne intendo. No, però... Te ne intendi perché l'hai detto praticamente? Sì, perché l'ha detto lui. Detto, adesso lui. Provo a fare una roba non tradizionale, un po' diversa. E io lì, ah, vabbè. Cioè, praticamente ha alzato. No, spiegami un secondo. Ha alzato la pedaliera praticamente. No, ha messo un microfono anche sulla pedaliera. Cioè, ne ha messi due sulla cordiera del pianoforte e uno anche sul piede dove schiaccio il pedale per tale, risuonare. Per qual motivo secondo te? Per tale... No, non ho idea. Ha dato un suono un po' particolare, quello sì. Ma si sente infatti nel pezzo esatto, il pedale che va e viene. Perfetto, è una cosa interessante, decisamente interessante. No, Cantaluppi è un sperimentatore. Ma Cantaluppi praticamente, oltre ad essere produttore, anche che ha arrangiato qualche pezzo, cioè ti ha dato una mano per gli arrangiamenti. Alcuni suoni sì sicuramente, anche per loro, per la scelta dei suoni di chitarra, penso, no? Voi siete d'accordo? Ma bene o male, per le chitarre abbiamo portato la nostra pedaliera in studio e i nostri ampli e abbiamo suonato, ecco. Più di tanto sugli effetti avevamo già... Io ho usato solo la roba degli altri a parte la chitarra. Va bene. Che era tua la chitarra? La chitarra era mia, gli amplificatori, era tutta studio. Roba che era in studio, pedali pure o roba che aveva portato Matteo da Milano. Ho capito, cioè... Perfetto. Anche per la batteria, perché lui è batterista. Che non c'è il batterista, è sempre in macchina. Esatto, in macchina. Ha dato una mano al batterista, cioè, per la scelta. Il batterista aveva la sua batteria o no? Sì, okay. Sì, aveva sì. La sua, si è presa nuova apposta per il disco. Per il disco, bene, bene. Però Matteo, cioè il produttore, avete trovato già cose erano presenti, praticamente gli strumenti, qualche strumento era già presente che avete utilizzato per il disco. Sì, sì. Ok, siamo pronti allora per suonare dal vivo? Adesso bevi un po' di acqua, ti fa bene, alla salute. E cominciamo con quale pezzo, come vedete, cominciamo con il pezzo che ha scelto Duccio, perché io non mi ricordo assolutamente. Facciamo Leave No Trace. Facciamo Leave No Trace. Ok, ecco, perfetto. Che è una di quelle più semplici. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. In a factory, only 10 cents and it's well worth it. You know I was such a kid, thought about his dreams already seen. It's confused, there is nothing to do, doesn't really do so. So Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo, la versione totalmente acustica, molto bella, diversa, chiaramente diversa da quella dall'album. È venuta bene. Va bene, sono contento. Visto, l'avete provata 5 minuti fa. Esattamente, è venuta molto bene. Complimenti al nostro mandolinista. Sì, l'abbiamo preso apposta. Grazie. L'abbiamo preso perché suona il mandolino e perché ha la moto. Ah, perché c'è la moto. Okay. Esatto. Lo sapevo questo. Che differenza c'è suonare dal pianoforte al mandolino? Pianoforte e mandolino? Ci sono tipo 250 corde di differenza. No, ma pensavo che tra il mandolino e la moto. Ma vedo che ti sei messo bene lo stesso, insomma, non hai avuto nessuna difficoltà. No, è un pezzo che lo suono. Dio, stasera l'ho suonato un po' male, però. L'hai suonato, dai, non hai suonato male. Però ho imparato su YouTube. Ah, non sapevo questo. Cioè, c'è un programma che su YouTube per suonare il mandolino. Sì, ci sono degli. Come si dice? Degli lezioni, insegnanti. Esatto. Ok. Lesson 1, Do maggiore. E così via. Perfetto. Come mai l'abbiamo già detto, però possiamo ampliare il discorso. Perché l'inserimento anche del mandolino nel vostro nuovo disco? Ma cioè, l'idea, ci dove è partita l'idea? Sì, lo usa anche il chitarrista dei Ram. Sono d'accordo. Noi siamo un po' fan dei Ram. Poi io sono anche in una band bluegrass e lo uso per fare anche bluegrass. Quindi abbiamo pensato, perché non usiamo anche nei Canadians? Che sono un po' bluegrass. Esatto. Beh, in qualche momento può essere anche. Ecco, qui sì, fare un pezzo più cercato. E tra un po' inizieremo a metterci anche gli stivali. No, sul palco no. No. Però cioè, l'idea è stata un'idea positiva, quella di aggiungere le chitarre acustiche, o no? Cosa dite? Sì, beh, sempre, ogni volta che aggiungiamo qualcosa di diverso è sempre un'idea positiva. Infatti, no, visto che è venuta così bene, io proprio di togliere la batteria. avanti. Il batterista non Ciao, c'è. Ciao Christian. Lo possiamo salutare, caramente. Sì, ciao Cristian. Ci sentirà da casa, chiaramente. Beh, attraverso internet ci sentono dappertutto e anche da casa Cristian sicuramente ci sentirà. Diretta a rockway.altervista.org ci potete anche vedere stasera e sentire, grazie ai Canadians che suonano. Quindi è un disco con delle sonorità, come abbiamo detto, differenti, un ampliamento del discorso, la voglia di ampliare, di trovare altre vie, anche una melodia che c'era anche nel disco precedente, ma qua viene rafforzato un po'. Cosa dici? Ma io dico di sì. Voi cosa dite? Cosa dite voi? Ma la melodia sì, fa sempre parte del vostro del DNA, del marchio di fabbrica dei Canadians. Poi magari ci sono diverse sperimentazioni all'interno sempre della melodia, insomma, perché non è così facile cantare bene, bene le cose semplici. Dal vivo come li fate questi pezzi? Questa sera avete fatto mandiamo 5 turnisti di solito dal vivo. È l'unica. Qui l'avete fatto in chiave chiaramente acustica, ma dal vivo pompate bene gli elettrici oppure no? Sì, come appunto diceva Max, soprattutto con questo album rispecchiamo abbastanza fedelmente quanto viene poi proposto dal vivo, ecco. Quindi sempre se in quella serata siamo ben messi, siamo in vena. Se no, sempre dal vivo avete fatto tanti concerti voi prima di cominciare a stare per un anno quasi fermi per incidere l'album. Sì. Quindi vi fate me tanti prima che adesso ci siamo presa comoda, ne abbiamo fatti adesso pochi per ora. Prenderete? Ma penso dopo. Beh, adesso ne abbiamo uno il 10 luglio in provincia di Verona, al castello di Zevio. Anzi, se tu che ci stai guardando vuoi venire, Christian, sarebbe il caso che venissi. E poi penso riprenderemo dopo la pausa estiva, visto che andiamo tutti in ferie, chi prima chi dopo, quindi al ritorno. Quindi dovete anche presentare questo nuovo album. Sì, esatto. Il live è la cosa migliore per presentarlo. Assolutamente, visto che di dischi non se ne vendono nei negozi, esatto, almeno li vendiamo lì. Dal vivo nei concerti, chiaramente. Quindi concerti totalmente. Ci sono delle variazioni rispetto al tema, non so, un pezzo del disco è così, poi dal vivo si amplia. Non c'è, no, perché è un disco, cioè è proprio cercando di farlo più, non è che cercando di farlo più fedele possibile, è che è il disco che è il più fedele possibile al live, quindi cioè quello che la gente compra è quello che in realtà poi ha visto dal vivo, ovviamente suonato meglio e cantato meglio sul disco magari con dei suoni che dal vivo non riusciamo a riprodurre perché dovremmo essere in 10 piuttosto che in 5 fare delle cose che non siamo in grado, ci limitiamo a suonare i nostri 5 strumenti e poi Però non è detto che dal vivo venga male. No, no, no, ma viene, cioè, viene praticamente uguale. È che se ovviamente in, un, in un una certa canzone Vittorio suonava contemporaneamente violino, mandolino e pianoforte, e dal vivo riesce a suonare solo violino e pianoforte. Esatto. Perfetto. Sì, chiaramente per il sito, cioè, in sala di incisione si fanno tante cose. Esatto. Io, limitato. Vivo, possiamo fare solo due quello... mani, esatto. Beh, il nostro batterista ha anche due gambe. Anche ha due gambe, giusto. È l'unico, tra l'altro, sembra ad avere due gambe dopo questa mia affermazione. Ok, ma non so che in scaletta cosa ci sia, che brano avevi scelto nel disco. La 6, no, la 6. La 6? Sì, sì, okay, mi perfetto. Danno l'ok perfetto. Che abbiamo scelto il la 6. Il titolo della 6? Ti ricordi? Ah, c'è un'amnesia totale. Ah, ok. Yes, no, no, Rain Turns Into Hail. Ah, perfetto, ok. Rock Wave, l'onda del rock. And then the sun. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ecco, ti volevo chiedere l'effetto un po' particolare che si sentiva. A me sembrava una voce filtrata, non so se mi sono espresso male. Sì, è un filtro, adesso non... non ti ricordo. No, non mi ricordo il nome tecnico, però è un passabanda, un passabasse. Cioè, quindi le alte, no, sì, il contrario. Cioè, non passano le basse, passano solo le alte, tipo effetto cornetta telefono. È un'idea di Matteo anche questa? Sì, probabilmente sì, però... Non sono sicuro. Assolutamente. Vabbè, è un'idea che si è sviluppata in studio. Poi hai detto un'altra cosa, possiamo dirla, sì, che il discorso, c'è un solo non è il Mellotron suonato, ma è un Mellotron. Sì, probabilmente attivato. Forse è un plugin, però non siamo sicuri. L'unico, non forse, ci ricordiamo più come è stato suonato. Esatto. È l'unico del disco. Gli altri strumenti sono veri. Sì. I tastieri tutti che hai suonato. Sì. Il synth che senti sono tutti suonati. Hai caldo, va bene così oggi. È un synth, un Korg MS20, non mi ricordo che anno, fine anni 70 mi pare, però non sono sicuro, devo guardare su vintagesynth.com. Perfetto, in ogni caso era uno strumento datato di quell'epoca, sì, come noi, e aveva un bel suono, però sono caldo, posso dirlo? A differenza di noi. No, anche voi avete un suono caldo quando suonate a quando suoniamo, sì. In ogni caso, quindi questo pezzo come si è sviluppato, ti ricordi, al di là degli arrangiamenti di Matteo, come è nata l'idea di questo pezzo? Questo l'ha scritto il Duccio, no? Come Duccio l'hai scritto te? È venuto la maggior parte struttura da lui. Era l'ultimo pezzo abbiamo fatto prima di entrare in studio. Sì. L'abbiamo proprio preparato, credo, nei 10-15 giorni prima di andare in studio. È l'unico senza bridge, senza special. Sì. È un pezzo abbastanza lineare, cadenzato, lento. A solo metal, no? Che abbiamo messo quella. La specialità del Vito, quella. Esatto. Sì, questa particolarità di essere molto cadenzato. Sì, esattamente. E anche evitante, accattivante, posso dire. Sì, questo. Perché più che altro ha questo ritornello che la gente, comunque, anche se dice ma quel pezzo lì fa schifo, magari perché probabilmente qualcuno l'avrà detto, però comunque il canticchia il ritornello. Il ritornello quindi prende, cioè, sia che il pezzo piaccia o non piaccia, qualcuno poi si ritrova a fischiettare quel. Esatto. Ma può essere. You are the one. Esatto. Ma può essere un singolo, se adesso i singoli non esistono più, un singolo potenziale, tra parentesi. Ma sì, visto che c'ha questo ritornello che si incolla alla testa. Sì, ma ho davvero questa voce bassissima anche nella vita di tutti i giorni. Non lo so. Vabbè. Questa è la tua voce stasera. Sì, ma ne parleremo nella prossima parte dell'intervista, credo. Ok, quindi è un pezzo che si incolla, cioè un ritornello accattivante, molto accattivante, che va bene praticamente. Sì. Perfetto. Ok, sono le 22:52. Io proporrei di fare un altro pezzo da disco. Poi faremo il solito giochetto e poi cominciamo a fare due pezzi live, ok? Ok. L'altro pezzo da disco che hai scelto, ti ricordi il titolo? Certo, è la numero 7 e si intitola Kim the Dishwasher. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Skin. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Sono le 22 e 57 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, diretta a rockway.altervista.org. Ci potete sentire e vedere stasera con i Canadians. Parliamo un momento di questo pezzo abbastanza duro, abbastanza lisergico, se mi è consentito il termine. Vai, Duccio, vai, parla pure vai, tu. Duccio. Io non so cosa dire delle canzoni. È un pezzo duro e molto lisergico. Ecco, secondo me. Mi hai rubato il tempo, volevo dire proprio lisergico. Perfetto. Se lo preparava da ottobre quell'aggettivo. No, decisamente duro, beh, duro, duro positivo, secondo me, musicalmente parlando. Cosa sì, dici? Forse è il pezzo più grandiano del, del disco, per come la vedo io. Però. Sì. Un po' ruvido forse. È un po' ruvido, sì. L'idea è com'è stata di questa ruvidità, di questo suono? Oddio, io di solito i pezzi che faccio io li faccio con una chitarra classica, che è quella che sto usando adesso, quindi poi in studio a livello di sonorità tante cose vengono comunque cambiate, vengono comunque sperimentate. È successo anche per questo praticamente. Sì, poi ci sono un paio di diciamo di accordi un po' dissonanti dentro, quindi magari anche quello contribuisce a renderlo un po' così. E basta. Ma, ecco. Sì, ma interessante. Voi i nostri ascoltatori non sanno, ma se c'è una lotta continua del foglietto, perché c'è una lotta importante? Mette i 5 dischi da portare su un'isola deserta. No, in realtà adesso stavo scrivendo stronzate. Vi siete messi d'accordo? Ok. Allora, adesso abbiamo il giochetto dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. Sono le 22:59. Chi comincia? Cioè, 5 dischi a testa, no? Esattamente. Ok, inizia Michele. Inizia Michele. Sicuramente tutti i live di Celine Dion che sono no, usciti. No, quelli lasciamo perdere. Guarda, allora, è molto difficile. Dimmi. Ammettilo che mi ha mandato un messaggio in giro fino a un sì, secondo. Sì, non l'abbiamo visto. Oh, sì, è vero, mi ha mandato un messaggio perché non ricordavo il titolo di un gruppo, ma. Ma ti è arrivato? No, non mi è arrivato. Non è ancora arrivato. Perché, appunto, era in latino e non vorrei sbagliare e dire un'altra cosa. Sì. Comunque, vabbè. Insomma, poi... Ok, vai allora. Sono quasi sempre gli stessi. Vabbè, fine. Due anni fa, sai, sono 2 anni fa, quindi. È un po' diverso. Credo che gli ascoltatori se li ricordino, Mitch, quelli che hai detto 2 anni fa. Sì, sì, i primi tre sicuramente. No, i primi due sicuramente sì. Poi anche gli altri. Comunque, dai, sicuramente mi porterei via Dark Side in uno dei Pink Floyd. Sicuramente. Come mai il periodo del Dark Side, non il periodo primo, se no The Wall? Perché è stato forse il primo che mi hanno fatto ascoltare, quindi mi è rimasto più di tutti. Ok. Sì, mi pare che è stato il primo dei Pink Floyd che ho ascoltato. Quindi da quello poi hai iniziato a sentire anche sì, gli altri. Sì, sì, sì. Okay. Beh, ovvio, sono tornato indietro, poi certo, sono andato certo. Un po' avanti. Meglio la roba indietro, comunque. Poi? Poi, vabbè, True Silver and Blood dei Neurosis, sempre. Mm. Sempre, perennemente. Bad di Michael Jackson. E come mai Bad di Michael Jackson? Perché è il disco. Non Thriller? No, Bad, perché c'è una storia personale su questo disco qua, che è la prima cosa che ho ascoltato in vita mia. Ho capito. La prima cosa, prima cassetta che mi è stata regalata, è stata registrata, Bad fotocopiata, era Bad di Michael Jackson, quindi per me rimarrà sempre. Poi li hai comprati tutti gli altri oppure no? Cioè Thriller? No, no, niente, solo Bad e basta, ok. Perfetto. Quello è quello, quello basta, belli quello gli altri, certo, sì, però certo. Quello è quello che mi porterei quello, dietro. Se no mi dicevi quanti te ne porteresti dietro. Hai perfettamente ragione. Okay. Si incazza il Mitch. Poi no, assolutamente. Stiamo parlando. Discutendo, certamente modo positivo. Dai, andiamo avanti. Poi qualcosa un po' più moderno, Woodwater dei Promise Ring. Dammi una spiegazione, un secondo, di Promise Ring. Perché vabbè, oltre ad essere un disco molto bello per me, mi ricorda molti momenti passati. Perfetto, ok. E molti ricordi positivi. Oltre ad essere appunto il disco più lento di questo gruppo. Certo, esatto. Volevo proprio arrivare a quello. Sì, il proprio disco più lento e più acustico. Anche esatto. Se appunto sono stato in un gruppo post rock, quindi decisamente tosto, tosto, insomma, comunque molto più ritmati di questo. Invece questo, secondo me, che per molti era considerato il peggiore, secondo me invece è il migliore veramente. Okay. E Clarity dei Jimmy Eat World, che è sempre più o meno lo stesso discorso dei ricordi e della. Perfetto. Tocca a te, Vittorio. No, prima te. Sì, vai pure tu, Duccio. Duccio, io vai, te li elencherò e basta, perché parlano già da soli. Da soli. Vabbè, i Sonic Youth, Dream Nation dei Sonic Youth sicuramente, con un grande disco. I Beach Boys, vabbè, quello che vogliamo. Pet Sounds, c'è Pet Sounds che forse è il massimo, massimo, minimo, secondo dei punti di vista, secondo me è il massimo che hanno fatto. Massimo, dai, massimo, massimo, massimo. Massimo. Sì, sì, vai avanti, Duccio. Vai, vai. Vittorio. Cure, 17 Seconds. Perfetto, molto no, bello. L'avevi messo te, purtroppo. Tu che hai cambiato. Ma non hai detto, non hai detto che andiate sulla stessa isola? Ma io non voglio andare nelle stesse isole di Duccio. Lo Pink Floyd cosa, Duccio? Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, anch'io. No, ma non si, non, la regola non dice non va, che non va. Non vale, allora, allora mi porto i REM. Qualsiasi... Out of Time. Bellissimo, un disco bellissimo di REM, bellissimo. Dopodiché gli Weezer con il Blue Album. Bello gli Weezer. Bene, dai. Visto che a te Massimo. Allora, io volevo portarmi gli Weezer, ma anche nel computer. Al posto degli Weezer porterò New Adventures in Hi-Fi dei REM. Perfetto, bellissimo. E poi Transformer di Lou Reed, che è un classico dei classici. È quello dove c'è Perfect Day e mi basta quello. È un disco meraviglioso, Perfect Day, un pezzo meraviglioso. Sì, poi molto bello anche il retro della copertina, non so se avete presente il retro della copertina di Transformer. Ricordiamo, sì, si sarà censurata. No. E poi Rubber Soul dei Beatles. Melancholy and the Infinite Sadness. Perché no Revolver? Perché su Rubber Soul c'è In My Life, che è la canzone che preferisco dei Beatles, e quindi questo è il motivo. Esatto. Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. Bellissimo. E In Utero dei Nirvana. Ottimo. Tocca a te, Vittorio, adesso. Me l'hanno detto tutti. Beh, sei l'ultimo, di solito è sempre così. Vabbè, vediamo. Puoi cambiare leggermente. Mi consigliano Iron Maiden, ma non posso. Bon Jovi. Anche se bon Fear of the Dark l'ho ascoltato un po'. Mica male. No, sto pensando 21st Century Schizoid Man di King Crimson. Poi Kind of Blue, Miles Davis, che ultimamente lo stiamo ascoltando un bel po' col quartetto di Leonardo, che ci sta ascoltando in diretta. Quindi... Ciao Leo. Ciao Leo. Poi Sgt. Pepper's dei Beatles. Così abbiamo completato il quadro. Esatto, manca solo il White Album, li abbiamo detti tutti. Ma Duccio non ha detto i Beatles, No, Duccio no. Ha detto i Beach Boys. No, ha detto Beach Boys, esattamente. Vabbè, poi Figurehead The Cure, se no Fate, uno dei due. Lui ha detto un altro album, quindi va benissimo. E Timothy Monster di Motorpsycho. Ecco, come mai hai scelto i Motorpsycho? Perché è stato il primo disco che ho veramente comprato. Cioè, li hai sentiti prima, li rubavi prima. Lo hai sentito bene. Sarebbe bello che Christian ci mandasse anche i suoi 5 dischi. Quindi, magari nel prossimo stacchetto ti diciamo anche i 5 dischi di Christian, visto che è all'ascolto. Perfetto, e dovrebbe essere in grado di. Ma potrebbe anche telefonare. Chris, se vuoi telefonare, il numero non lo so, però dicono che tu possa anche telefonare. Mi dicono di là che il numero me lo daranno dopo. No, niente, non riesco a leggere il linguaggio dei segni che mi fanno dall'altra parte del vetro. Ah, ti chiamiamo, va bene, non ho ancora capito. Comunque ma è sufficiente un SMS, facciamo prima. Ok, allora adesso abbiamo deciso di suonare qualcosa. Siete pronti? Sì, sì, come sempre. Cos'è che avevamo detto di fare adesso? Due pezzi. Dumbass e Lone Lethargy. Quindi un pezzo dall'ultimo disco e un pezzo dal primissimo EP che abbiamo fatto nel 2005 ancora. Perfetto, ok, andiamo allora dal pezzo dall'ultimo disco. Dumbass. Rock Wave, l'onda del rock. I want, all I really want is to be very rich, to be the richest dumbass in the world. I lose everything in the end, but I believe that all got so shine in the sky as they float around, around and dance in circles in the sky. Well, I want to be with them. Well, I just want to be with them. Thank you. is to get back into the warm. I'm never coming out into the world. All this conceit, all is coming to an end. I lose everything in the end, but I believe that all got so shine in the sky. As they float around, around, and dance in circles in the sky. Well, I want to be with them. Well, I just want to be with them. To be with them. To be with them. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo, abbiamo fatto una versione acustica molto... qua c'era un momento di Beach Boy, un momento di Rem, ma molto i Canadians praticamente. Sì, ma soprattutto i Beach Boys. I Beach Boys, bello, ma è bello così, queste voci che si incrociavano. L'idea è stata, avete fatta qua praticamente. Sì, sì, sì, perché non l'abbiamo mai suonata, o sì, l'abbiamo fatta acustica questa, sì, sì, sì, alla sì. FNAC forse. Sì. Beh, vabbè, però mai senza un batterista, quindi era la prima volta che la improvvisavamo così. Il tempo lo battevi così, te? Sì, esatto, esattamente. Esatto. Che è come lo tiene il Cree, quindi. È stata molto positiva, secondo me. Sì, sì, sì. Lui lo fa sbattendo le gambette, però. Cree, grazie. Mi ha mandato i dischi. Christian, possiamo dirgli allora. Lui porterebbe Generator dei Bad Religion. Fine, non ha capito. non ha capito. Doveva dire 5. Comunque, Generator dei Bad Religion. Grande Cree. Se ci vuoi mandare anche gli altri 4, li comunicheremo alle tue innumerevoli fan. Esattamente. Che ci possono vedere stasera con le telecamere. Sì, beh, non è un bel vedere. No, ritornando a questo pezzo che ha molte sonorità legate anche al titolo del disco, questi anni 60, 1960, anche se Beach Boys sono leggermente dopo gli 60, no, 59-60, perché Beach Boys, soprattutto in questo momento, in questo pezzo, in queste voci che si intrecciano, molto positivo secondo me, non so se siete d'accordo, io l'ho sentito molto bene. Sì, sì, noi siamo sempre d'accordo, ma... È Duccio che ha messo il disco dei Beach Boys, farà rispondere a lui. Esatto, anch'io, secondo me. L'idea che avete fatto qualche minuto prima di andare in onda, praticamente. Vabbè, i Beach Boys alla fine fanno parte del vostro bagaglio. Sì, che poi si ritrovano anche negli Weezer, se vogliamo. Sì, comunque, esattamente. Tutta roba che ascoltiamo e apprezziamo tantissimo. Poi siamo dei cantanti molto, molto bravi, quindi abbiamo appena dimostrato, se non sbaglio, anni di corsi e ricorsi. Ecco, insomma, poi la melodia anche, insomma. I Beach Boys non erano così semplici, no, perché erano molto complicati. Molto complicati, sì. Esattamente. Noi facciamo i Beach Boys, siamo una brutta copia. Ecco. E dal vivo, al di là del FNAC, dove l'avete fatto? L'avete fatto anche elettrico questo pezzo? Sì, sì, sì, lo facciamo sempre dal vivo questo. Sempre con il è l'unico pezzo in cui abbiamo il mandolino dal vivo e cerchiamo di farla abbastanza fedele al disco, ovviamente. Nel disco io canto anche, in quel pezzo, l'unico pezzo in cui canto, dal vivo fortunatamente non mi si sente mai quando la canto. Ci pensa Duccio a cantare le mie parti, le tue parti. Vivo. E dal vivo il nostro batterista che non è presente, come si comporta in questo pezzo? Lui si è sempre comportato molto bene, però se devo dire negli ultimi tempi l'abbiamo un po' sgridato, perché... perché è stato un po' distratto. No, suona sempre bene. Però vedo che adesso mi ha mandato anche un SMS, quindi è sempre sul chi va là. Mi ha rimandato Generator dei Bad Religion. No, poi mi ha mandato Ribbed dei NoFX, Clarity dei Jim Eat World, Building dei Sensfield e il Blue Album degli Wizard. Quindi Cree, due li hanno già detti, Duccio e Mickey. Però tu sei giustificato perché sei a casa e ti vogliamo un sacco di bene. Ok, benissimo. Questi, dunque abbiamo avuto anche i suoi 5 dischi praticamente. Wizard è molto amato fra di voi, Wizard. Come mai questo motivo? Oltre a un contatto, un legame con i Beach Boys praticamente. Io non posso rispondere in questo momento. Puoi rispondere. Scusa, ripeti la domanda. Stavo giocando a 3-7 con... per i Wizard. Abbiamo parlato di... anche Cree ha parlato di Wizard. Tu hai citato i Wizard. Sì, gli Wizard del primo periodo. Sì, come mai sono legato agli, come mai sei legato a questo disco? Beh, perché mi piacciono molto le sonorità West Coast californiane. Mi piacciono i muri di chitarra e i coretti, insomma, vabbè, poi il primo album per me ha significato tutta la mia gioventù, quindi bresciana, abbastanza legato, ecco. Poi li ho anche visti dal vivo, tra l'altro, in perfetto. Italia, sono stato uno dei pochi, uno di pochi esattamente, sì. Quindi questo è il motivo. E ha influito nella costruzione dei pezzi questo motivo nella costruzione di questo disco e nel disco precedente? Sì, sì, sì, penso proprio di sì. Insomma, ho iniziato bene o male con i Canadiens, ho iniziato sì a... Era il periodo in cui ascoltavo gli Wizard, quindi diciamo che i pezzi erano bene o male legati a quella scena lì. Poi anche Max, insomma... Anche Max e anche Michele, che sono stati... Michele secondo me non li ha mai ascoltati, di Wizard, di la verità. No, la scena West Coast, non ascoltare il Max, che no, è ignorante. Non segue West Coastiano, sì che segue West Coastiano, leggermente, no. Non saprei dirti... Cioè io ascolto un po' di tutto. Sì, lui lavora in un negozio di dischi, quindi... Ne vendo dei dischi, quindi è avvantaggiato. Però... Ma i West Coast tirano ancora adesso? West Coast. Boh, cos'è che tira ancora? Non lo so, sai. Attenzione che c'è una telefonata. C'è il primo concorrente di questa sera, che se non sbaglio è il signor Cristian Corso da Verona. Vai. Pronto? Cristian. Pronto? Cristian, ci sei? Io ci sono. Perfetto. Buonasera. Sì, noi ci siamo, Cristian. Hai scelto i 5 dischi su un'isola deserta, allora. Non sei allora fuori in macchina praticamente. No, non è, no, in verità sì, se vai a controllare. Ti sta chiamando dal bagagliaio. Hanno rotto le maniglie e non riesco a uscire. Abbiamo messo la sicura per i bambini. No, in verità è che non ci arrivo. per quello sei rimasto dentro. Okay, ma stasera non sei venuto te, l'altra volta eri te presente, quindi... C'è stato un cambio praticamente. Pronto, sì, mi senti? Sì, sì, ti sento. E Cree ha detto solo sì, sì, ti sento, sì, sì, mi sento. Questo è il suo contributo. Sei d'accordo sui Wizard anche te? Visto che abbiamo parlato con Duccio dei Wizard e dell'ispirazione anni 60 in alcuni momenti del vostro sound. Pronto? Sì, mi senti? Sì, no. Perché ti sento un po' a scatti. E mi senti adesso? Sì, adesso ti sento bene, ho capito solo Wizard. No, se sei d'accordo sull'ispirazione degli anni 60, abbiamo parlato degli anni 60 e Duccio ha parlato del momento West Coastiano, sei d'accordo anche te come ispirazione, fonte ispirativa? Sì, io sono nato dopo, quindi... Sei nato dopo, d'accordo, però hai sentito i dischi degli anni di West Coastiano, qualcosa di West Coastiano l'hai sentito? Sì, sì, no, beh, sì, anch'io vengo, io ovviamente... Hai altri gusti. Oh, vengo da altri generi, mi hanno un po' portato sui loro gusti i ragazzi, però io venivo da un'altra scuola, con Michele, da una scuola un po' più hardcore. Hai fatto 2 anni in uno tu. Esattamente. Dalla scuola hardcore praticamente, hardcore punk praticamente. Esattamente, io ho iniziato con quella musica lì, anche con i gruppi che avevo fatto, anche con Michele, con cui abbiamo suonato da anni. E, insomma, quelli erano un po' i gruppi che ascoltavamo, il Bad Religion, quelle cose lì, e ovviamente il genere tendeva su quei gruppi lì, quindi... Ma sono West Coast. Ah, quando eravamo giovani, Anche quello. Però, ti hanno lasciato di sviluppare leggermente, in qualche momento un po' l'andamento punk c'è in questo album? Leggermente sì, oppure no? Guarda, sono... No, dove? Non esiste. No, in verità sì, qualche volta mi concedono qualche cinghialata. dai, dormi, credo. Ma c'è molta democrazia nel gruppo, no? Sì, come vedi. Infatti. L'abbiamo chiuso in macchina e gli abbiamo spezzato le dita perché non posso aprire la portiera. Ok, ok. In ogni caso, un bel gruppo i Canadiens. Grande, Cristian, grande. Grazie, grazie. Bene, Cristian. ci vedremo nelle prossime, quando, se ci sarà un'altra occasione per ospitarvi, dovresti arrivare anche te. Vengo, magari vengo solo io. Porti il tuo disco solista, Cri. Ecco, un disco solista. Potrei fare un disco solista. Effettivamente. Un disco solista, però era un DVD solista. È vero, vogliamo, Christian, parlare di questo DVD solista che hai fatto? Possiamo cambiare discorso, parliamo. Dai. Ok. Ok, Christian, allora, ciao, ci sentiamo. Ciao Cri. Ciao. Leo. Benissimo, quindi abbiamo sentito anche il batterista, il quinto componente della band. E ne valsa la pena, direi, o no? Insomma, quindi non era nascosto sotto la... No, è in macchina. È in macchina, ancora in macchina. 23:18, facciamo un altro pezzo live? Facciamo un altro pezzo live. Abbiamo detto che faremo adesso Non Lethargy dal primo disco, primo EP. Dal primo EP, che si chiamava il primo EP? The North Side of Summer. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito l'altro pezzo acustico. Questo apparteneva al primo disco, primo EP praticamente. Però abbiamo ancora citato il titolo del nuovo disco. Ne abbiamo parlato con la domanda, la prima domanda. Ma il titolo non l'abbiamo ancora citato. The Fall of 1960, che equivale al titolo della canzone su cui abbiamo interrogato Duccio all'esame. All'esame. Ok, perfetto. Bella versione questa qua di un pezzo del primo EP. Era un EP, mi pareva fosse un disco. Erano 5-6 pezzi. Quindi 7-8 con la versione, con le bonus track. Quindi praticamente quasi un disco ufficiale. Sì, ma infatti molti pezzi poi li abbiamo ripresi nel primo disco ufficiale. Diciamo. Questo qui ce l'avevamo fatto per i fatti nostri. E poi invece quando c'è stata una mostra, c'è stata altra gente che cacciava i soldi al posto nostro, okay. Abbiamo deciso di rifarli meglio. Come hai fatto? Hai fatto una fase ritmica con la bocca? Sì, esatto, così. E volevo portarmi gli occhiali. Esattamente. E fare la stessa cosa. Ma Me l'ha insegnato Cristian. Lui lo fa, non lo fa così, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Il Nietzsche ha capito cosa intendo, vero? Lasciamo perdere. Ok, adesso facciamo una cosa. Citiamo il vostro sito. Il nostro sito è, allora, il sito è canadiansmusic.com, dove in questo momento c'è solo lo streaming del disco e probabilmente ci sarà ancora per qualche settimana finché non ci decidiamo a metterci dell'altro. Invece il nostro MySpace è myspace.com/canadiansTheBand. E poi citiamo anche il sito della nostra etichetta, certo, che è ghostrecords.it. E basta, non so se che, vogliamo citare. Che supporto vi ha dato l'etichetta? Beh, ce l'ha prodotto. Ce l'hanno prodotto loro il disco, insomma, senza l'etichetta non avremmo. L'hanno finanziato anche loro? Sì, sì, ci hanno pagato registrazioni, stampa, tutto quanto, insomma, quindi. No, ci siamo sempre trovati bene con Ghost e ancora di più adesso, insomma, che abbiamo avuto la possibilità, grazie a loro, di registrare questo disco. Se no, probabilmente, sicuramente senza loro non l'avremmo registrato così come l'abbiamo fatto. Certamente. Quindi grazie Ghost, tra l'altro auguri a Francesco che si sposa dopo domani. Perfetto, perché il discorso è sempre quello, nei gruppi emergenti se c'è un supporto, di solito si autoproducono il disco, se lo incidono loro, Ma spese. Noi gli spendiamo in birra di solito, certo, i soldi. Voi siete stati fortunati stavolta, in ogni caso... fortunati perché avete un buon riscontro. Sì, sì, sì, no, poi una buona etichetta. Una buona etichetta che ha creduto in voi praticamente ed ha ampliato il discorso, è una cosa molto positiva. Non è facile. No, non è facile effettivamente, conoscendo altre realtà ci riteniamo abbastanza fortunati. Sì, anche altre realtà indie praticamente. Sì, sì, sì, indie, ma anche, cioè anche più grandi di noi che comunque... fanno, cioè, fatica, sì, esattamente, andare avanti. L'artista paga di suo pugno praticamente, sì, loro, sì, solo distribuiscono. Poi noi, cioè, dire, poi ci paghiamo tutto di nostro pugno, qualsiasi cosa ci sia da fare, giustamente ce la paghiamo noi, certo. Però devo dire che Ghost ha dato una grossa mano per fare questo disco. Per via di concerti. Non scendiamo nei particolari perché non è, certo, però per via dei concerti siete voi che ci fittate le date? Avete... No, abbiamo un'agenzia che ci, fino a qualche settimana fa eravamo con la Chic Promotions, quella di Amari, sì, Dente, certo, Calibro. E adesso invece siamo passati a Grinding Alt, che è un'agenzia di Roma, e quindi da adesso in poi le nostre date le cureranno loro. Le cureranno loro praticamente. E una cosa vi devo chiedere è questa. Non so, i gruppi emergenti che sono venuti qua hanno sempre avuto delle difficoltà a cominciare ad suonare cose proprie. Non è il caso vostro, mi pare? No, vero? No, noi non abbiamo. L'unica cover che abbiamo fatto dal vivo è stata per una serata particolare a Verona, una serata di beneficenza, quindi era la cover di una band veronese, ma poi per il resto non abbiamo mai fatto cover, insomma, noi dal vivo. Avete sotto suonato cose vostre? Solo roba nostra. E non avete mai avuto difficoltà a trovare date? Date. Beh, sì, certo, all'inizio sicuramente, sì, insomma, dopo... Poi lentamente le cose sono migliorate, sono sviluppate, eccetera. Sì, sì. Quindi è una cosa molto positiva. Ok, mettiamo un altro pezzo dall'album. Che traccia è, Michele, ti ricordi? La numero 8. La numero 8, benissimo. La vuoi presentare? Sì, signori e signori, vi presento The Fall of 1960, Canadians. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Beh, mi rifai un momento l'arpeggio del mandolino? Blu Radio. Okay. Ci sarebbe una sigla dal vivo, dici Michele. Solito sono anche disoccupato. lo faccio quando vuoi. Ok, anche da casa, ecco, esatto. Scritturiamo, ha detto Michele. Bene, bene. Diretta rockway.altrevista.org. Stasera abbiamo i Canadians fino alle 24, quindi abbiamo ancora mezz'oretta per parlare, per discutere, per suonare e per parlare di questo disco nuovo. E questo dava il titolo all'album, la title track, si può dire così? Yes. L'idea di questa title track un po' complicata, un po' nervosa al finale, questo batterista non c'è. Io ho detto stop and go, adesso lui non può rispondere, ma potete rispondere voi se volete. Per lui? Per lui. Cri. Ma può anche mandare un messaggio al telefonino tuo, per così. Ma no, sì, Cri sicuramente ha lavorato un sacco su questo pezzo e mi ricordo proprio quando abbiamo fatto i provini che continuava: no, qua ci devo mettere qualcosa di più particolare ancora. E alla fine ha detto: Cri, basta, perché cioè, cambia ogni giro che fa, cambia il modo di suonare. E alla fine siamo riusciti un po' a contenere questo suo entusiasmo giovanile e in fase di registrazione è stato impeccabile, quindi era un pezzo molto complicato, ma è riuscito a suonarlo, se non al primo colpo, probabilmente al secondo. Sì, ma è decisamente un pezzo molto complicato. Mm-mm. Ma come mai avete inserito un pezzo così complicato? Perché se no poi dicono sempre che facciamo pezzi troppo semplici. Volevamo dimostrare alla gente che siamo bravi a suonare, che sappiamo fare pezzi complicati. Oh, okay. E credo che gli altri siano d'accordo con me. Siete d'accordo? Sì. Perfettamente d'accordo. E Christian mi ha mandato un SMS con scritto sì anche lui. Quindi avete lasciato il campo a Christian di giocare, di divertirsi. Sì, ne abbiamo proprio come quando lo apriamo il bagagliaio, lo faremo uscire e gli diciamo: vai Christian, vai. Ed è stato così anche in questo pezzo. Ha dato il meglio di sé. Il produttore che influenza ha avuto in questo pezzo? L'ha suonata lui la batteria. No, in questo pezzo non, cioè, a parte che ci ha implorato il produttore di tagliare l'assolo e c'è riuscito a farcelo tagliare di un giro, quando in realtà lo voleva far tagliare di un ulteriore giro, però Duccio è stato abbastanza irremovibile da quel punto di vista. Duccio è qua? Sì, Duccio è qua. Beh, possiamo parlare di lui anche se qua o no? Certamente. È stato irremovibile il produttore? È stato irremovibile? No, si è mosso poi, perché alla fine abbiamo tenuto un giro in più, quindi... Mm. Perché no, l'idea... ma ci sta alla fine. Ma perché l'idea di tagliare anche un altro giro? Così. Perché sono tutti uguali. Non è mia l'idea di tagliare il giro, quindi non devi chiederlo a me. No, no. Potremmo chiamare Matteo Cantalupi. Lui ha avuto l'idea di... No, e sai, poi quando sei in studio alla fine discuti sempre di cosa si può tagliare, di cosa non si può tagliare, però nel senso è anche difficile stare qua a dire perché l'idea di tenere. Perché l'idea, alla fine ascolti il brano, anche lì lo ascolti 10-15 volte e ti sembra che suoni bene, poi una volta ti sembra che suoni male. Ma già il fatto che sia stato troncato, già per me vuol dire già tanto. non eri d'accordo al 100%. No, invece adesso mi sembra che lo sia. No, sì, beh, si discuteva nel senso bello del termine. Secondo me non è così ripetitivo, come comunque varia, c'è sempre una chitarra che fa qualcosa di diverso. E poi ci sta comunque anche il discorso della ciclicità sì, ho capito. Dei giri, Boh. È uscito cazzo, sangue dal naso con dicendo, questa parola complicatissima. No, però nel senso il fatto che sia anche ripetitivo non vuol dire per forza che sia noioso, ecco. No, no, chiaramente no. Quello. Ok, quindi avete trovato non un accordo, ma le poi tirando le fila. Le beh, sì, cioè dato... uno cede da una parte, uno cede dall'altra alla quindi, fine. Democraticamente. Sì, assolutamente sì, democraticamente. Sì, sì. Quindi se stati molto soddisfatti se è ritornato il produttore del primo del disco precedente, quindi esatto, era tutto ok al 100%. 23:35, io proporrei un altro pezzo da disco, non ti ricordi che traccia possiamo fare adesso? Beh, potremmo fare la traccia facciamo la traccia numero 2 che abbiamo suonato anche prima in esatto, versione acustica, e adesso la potete sentire suonata e cantata in maniera praticamente un altro muro praticamente impeccabile, cioè un altro gruppo, un altro muro elettrico e un altro, e c'è Cristian che suona in quella, c'è Cristian che suona, ok, benissimo, per Emiliano questa che ci sta ascoltando, ciao. Cristian suona, come suona in questo pezzo? La traccia numero 2. Come suona? Ah, come piace a lui proprio, in maniera... in libertà totale. Sì, cioè, proprio sobria. Come piace al Cree. Lui è così. Cioè, voi ascoltate quello che fa la batteria in questo pezzo, vi immaginate il nostro batterista in questo momento che raschia le unghie sul bagagliaio della Golf del Mitch. Perfetto. Allora, adesso lo sentiamo allora. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, falla ancora. Blue Radio. No, abbiamo già scritturato, mica dita, già scritturato. Figata. Bene, bene. Dopo, così ti compri il cupolino della moto. Dopo incidi direttamente. Bene, dopo ti do la partita IVA e tutto. Ok. Benissimo, abbiamo sentito quindi la versione da disco di questo secondo muro chitarristico, posso dirlo questo? Sì, sì, sì, infatti l'abbiamo messa per seconda in modo tale che e i poi... recensori possano dire oh, il solito muro di chitarre. Perché probabilmente i recensori non tutti si sono fermati. Esatto, sì, perché subito dopo c'è un pezzo che parte col pianoforte, quindi... Esattamente, che è una novità assoluta rispetto assoluta, non l'ha mai fatto nessuno prima di noi e Vittorio ha detto qua iniziamo il pezzo con il pianoforte. Che poi chiaramente muta, però all'inizio del pianoforte... Esatto. Come abbiamo detto in precedenza, era stata una buona idea quella del pianoforte. Mm. Bravo Vittorio, bravo. Sì, sì, sì, sì, bravo. Grazie, grazie, grazie. È convinto, chiaramente. Sì. Eh beh, no, no, infatti. Io di metterci il pianoforte poi. No, all'inizio era un arpeggio di chitarra quello lì. Esatto, difficilissimo a fare da un essere umano e quindi abbiamo deciso di farlo. Solo il Mitch poteva farlo. Ok, quindi il pianoforte ha sostituito l'arpeggio di chitarra, sì, praticamente. Sì, sì, sì, proprio stato un riarrangiamento cioè pianistico di un poi hai citato precedentemente avevi citato anche il piano che avevi usato no, la marca non me la ricordo, Il pedale... era un mezzo coda pedale, cioè niente, abbiamo fatto una microfonazione un po' non accademica per quanto riguarda, però lì non me ne intendo più di tanto, cioè non è che sono un tecnico però il microfono era predisposto in quel sì c'era, cioè oltre all'ambiente, cioè diciamo che uno dei due microfoni d'ambiente prendeva più il pedale, cioè era più basso rispetto alla posizione classica per prendere il riverbero della stanza, però magari adesso ci sarà qualche tecnico del suono in diretta che si sta mettendo le mani nei capelli, no? Fatto capire, ecco, c'è una comunicazione. Bisogna salutare Monica. Ciao Monica. Ciao Monica. Bisogna salutarla, assolutamente. Ecco, la sentiamo. Benissimo. È stata soddisfatta sicuramente del vostro concerto live, che non è ancora finito. Ma molto meno soddisfatta del nostro saluto, probabilmente. No, assolutamente. Ciao Monica. Esattamente. E adesso che ore sono? 23:41, siamo predisposti per fare qualcosina? Per fare un altro pezzo? Esattamente. È l'ultimo che fate? No, ne abbiamo... ancora due, mi pare. Abbiamo, cioè, dipende da te, guarda. potete suonare... Se vuoi che facciamo bella figura, questo è l'ultimo pezzo. No. Se vuoi che facciamo la figura media... Media e penultimo. Ne facciamo un'altra. Andiamo a casa a prendere Christian però per fare quella. Va bene, allora facciamo un altro pezzo sempre dal disco nuovo che si intitola Yes Man e canterà il maestro Vittorio Pozzato. Perfetto. Oh yeah. Rock Wave, l'onda del rock. I cannot find the words, but words are only words, and sometimes they're unspeakable. Yes, you're always right, you always get it right, you always get it right. You are a light that shines, shining, shining bright, shining in my heart. And when you make it shine, there's nothing in my mind, there's nothing that's unthinkable. Yes man, baby, I do you anything you want, I do you anything you need, 'cause I really need your love. I'll tell you anything you want, I'll tell you anything you need. I'm gonna tell you that the sun, yeah, the sun is turning around the earth. Bad times to make a change, it's time to fall asleep, it's time to see just the pleasant things. And then you dim the light, then you close your eyes, you'll dream of me, I dream of you. Bad times to make a change, bad times for lucid dreams, bad times for unproductive things. But I don't give a fuck, gonna make things change. Things are gonna change. Things are gonna change. I'm a yes man, baby. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Bellissimo secondo me, molto tra il folk e i Beach Boys, sempre targati Canadians, siete d'accordo? Ma qua secondo me è più Beatles, no? Ma anche i Beatles, un sì. Po'. Beh, è vostro in ogni caso, sì, al 100%. Sì, sì. E l'avete inventato qua praticamente, o no? Acusticamente, ma, o l'avete provato a casa questo? No, io l'ho scritto qua gli accordi, perché di solito li faccio col piano, che è un po' più difficile forse. Allora, prima sono andato su YouTube e mi sono scritto. Ah, perfetto. Ok, è appena arrivato un SMS che dice: questa è venuta proprio bene. E poi c'è un commento colorito che non posso dire in diretta, però ve lo lascio immaginare, è di un ragazzo di Verona, quindi Emiliano sempre. Questa è venuta molto bene, ma anche le altre sono venute molto sì, bene. Sì, però questa l'ho questa sentito preso bene. Spirito, forse verso mezzanotte lo spirito. Meglio di questa potremmo far solo con l'ultima, secondo me. Sicuramente. Esatto, e non è ancora arrivata l'ultima. No, no, ma infatti, ma 10 minuti arriverà l'ultima. In ogni caso, un bellissimo pezzo, colorato in modo giusto, un modo totalmente acustico, ripeto, un po' folcheggiante a mio parere all'inizio, poi è mutato in un altro all'inizio verso. Perché mi sono dimenticato di suonare. Me... quindi no, sembrava Lucio, cosa dici te? Ah, è uscito bene è un bel pezzo, sì. Mi piace. Vittorio ha già messo molta grinta e... poi l'ha cantato lui e il maestro, lui l'autore, maestro Vittorio, maestro Pozzato, sì. Maestro Vittorio Pozzato. Se un giorno andremo a Sanremo ci sarà lui a dirigere l'orchestra. Esatto. Esattamente, sì. In moto sul palco. Esatto, con le fiamme dietro. Peccato non ci sia Christian, guarda. Ma segue, cioè Emiliano è l'altro tuo amico. Sì, sì, Emiliano sta ascoltando, è molto partecipe anche tramite SMS. Ma Christian, sarebbe stato bello averlo qui, perché manca quel lato percussivo, un guascone. Lato che funziona Christian in questo pezzo. No, se lo... Lo fate anche acustico dal vivo? O ma no? L'abbiamo fatta acustica l'ultima volta per la presentazione del disco, ma Christian era a Berlino quel giorno, quindi c'era un altro batterista al suo posto. Però l'abbiamo suonata anche in un altro paio di occasioni, sempre acustica. E va bene. Sì, quindi Christian fa il suo lavoro anche quando deve suonare piano. Quando deve fare la persona per bene, la sa fare e ne sa qualcosa. Di mamma. Esatto, la madre di Duccio. È un po' che detta così magari è un po' guascone, insomma, Cristian. No, è una persona, è una persona splendida lui quando deve interagire con delle persone diverse da noi quattro, quindi è educato e squisito. Dopo, quando invece interagisce con noi quattro, diventa Hulk. Ok, 23:49, diretta rockway.altervista.org. Abbiamo tempo per far sentire un pezzo da disco. Quello che volete, che traccia vi ricordate far sentire, anche se avete già fatto sentire dal vivo, non c'è problema. Potremmo far sentire quella che suoneremo dopo acustica, no, così la gente sente la differenza. No, però così facciamo lo spoiler, non è mai bello. Potremmo Duccio sta ballando. Ma facciamo l'ultima, allora. Ok, facciamo l'ultima del disco. Che occhio che a un certo punto, cioè, finisce il pezzo. Anche se il contatore del lettore vi dice che dura altri 6 minuti, il pezzo è finito. Sì, vi faccio dei gesti io davanti alla regia. Quindi andiamo con l'ultima, che si chiama dillo tu, Duccio, dai. Dai, vai, dillo te. il titolo. Open Letter to an Alpine Marmot. Alpine Marmot, non lo sapevo. Lo sapevi che sbagliava praticamente, è per quello. Sono caduto. Sei caduto. Ok, la sentiamo e poi la commentiamo, ok? Ok. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave. Blu Radio. Ti abbiamo assunto. Adesso 23:55 ti abbiamo assunto. Bene, bene, ma la, ma la paga è buona. La paga cosa? Ok, 23:55, quasi 56, e abbiamo finito la cavalcata con il Canadian. È stata una cavalcata molto bella, piacevole, cosa dite? Siete sì, sì, soddisfatti? Certo, come essere a casa, sì, come sì, dicevo sì, prima. Come essere a casa, esattamente. Siamo venuti talmente tante volte. No, sì, tre volte, ma fa bene. Io ero venuto perfetto, no? Con un altro gruppo prima, ero quindi. Venuto con un altro gruppo, ti ricordi che gruppo era? Certo, ne ho avuto uno solo prima, con gli Slammer. Ah, Slammer, esatto, Slammer, che avevano aveva vinto un premio della critica del Mucchio, mi pare. Simpatia. Sì, avevamo, sì, era consigliato dal Mucchio il disco. Esattamente. C'ho ancora un sacco di adesivi a casa. Eh beh, è una cosa positiva. Sì. Certo. Fa parte del tuo passato, un bel passato. Eh sì. Benissimo, con cosa salutiamo i nostri ascoltatori stasera? Con la manina. Con la manina, con la manina. Li salutiamo con un pezzo che non abbiamo mai provato in acustico, ma Duccio è arrivato qui questa sera dopo che lunedì non si è presentato alle prove, dicendo: oh, potremmo fare questo, e tutti: no, ma dai, che viene uno schifo. E infatti adesso la faremo benissimo, però adesso. E quindi vi salutiamo con The Night Before the Wedding. E non so se volete salutare qualcuno anche voi. Io saluto Monica ancora. Ciao Monica. Ciao Monica. Ciao Monica. Tiziano, Cristian, Leonardo, Evelina, tutti i ragazzi. Ricordiamo il titolo del disco. The Fall of The Fear of the Dark. The, the Fall of 1960. La casa discografica, l'etichetta Ghost Records. Dove si può trovare? In tutti i migliori negozi di dischi. Dischi oppure nel vostro sito. Il nostro sito www.canadiansmusic.com. O se no anche a casa del nostro batterista Christian, che ne ha venduti davvero tanti, e lo potete trovare a Verona vicino a Corso Milano, dove c'è il canale quello che va a Chievo. Perfetto. E l'ultima cosa, il prossimo concerto che farete? Il prossimo è il 10 luglio al Castello di Zevio in provincia di Verona. Perfetto. Una location molto bella, tra l'altro. Ok. Grazie a tutto il nostro staff. Grazie, staff. Grazie a voi. In testa il nostro mitico regista. La prossima settimana Rockway è in sosta, non si fa. Una settimana di ferie. La settimana dopo riprendiamo fra 15 giorni. Grazie ai Canadians. Buonanotte a tutti con i Canadians. Buonanotte. Ciao. Vai Duccio. Rock Wave. L'onda del rock. She cannot sleep. It's easy and hard to believe. Swing under her pillow, it lost its end somewhere in the dark. She's 17, too young to die or to give in. The midnight moon displays her fears and ghosts. In the dark, she's running fast out of here from where they came. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock.